Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Si sta verificando questa situazione, una situazione di allarme che non ha motivo di essere. È una notizia che viene enfatizzata, viene, diciamo così, lanciata da agenzie di stampa, poi vede che non c'è nessun fondamento dal punto di vista, diciamo così, della patologia così importante. E l'opinione pubblica comincia a dire forse qualche cosa di vero ci può essere. Beh, io per quanto riguarda quei due casi che sono presentati qui al Policlinico, escludo nella maniera più categorica possono essere patologie infettive oppure patologie trasmissive. È inutile nascondercelo, ci abbiamo tutti un po' paura dell'Ebola. Non sappiamo esattamente come arriva, se arriva, quando arriva. Sappiamo tante cose leggendo i giornali, ma la paura profonda resta. E alla paura, naturalmente, si associano episodi di irrazionalità, che molte volte vengono presi dai giornali e diventano anche esempio per puntare il dito contro le persone che non capiscono, le persone prive di sensibilità, le persone che hanno atteggiamenti discriminatori. Ma l'ignoranza affonda naturalmente nelle nostre più recondite paure. Qualcosa è accaduto di singolare, lo riprendo da Repubblica, di ieri in una scuola di Fiumicino. Non hanno fatto entrare una bambina di 3 anni, Chanel, che era appena tornata da un viaggio in Uganda con la famiglia, perché il padre fa il carabiniere, viaggia molto in Africa. Era appena entrata, tenete conto che in Uganda è un paese che non è stato toccato ancora dall'Ebola, e le altre mamme si sono coalizzate, la scuola Porto Romano a Fiumicino, e hanno detto che la bambina deve rimanere fuori perché potrebbe contagiare le altre con Ebola. Le madri sono lasciate prendere da questa paura. L'allarmismo, che è al limite del razzismo perché è discriminatorio contro la bambina, potrebbe allargarsi, potrebbe creare una psicosi, potrebbe creare qualcosa che in realtà fa guardare le persone che apparentemente possono avere la stigma di qualcuno che possa aver contagiato o vissuto, passato per paesi in cui c'è il contagio, o perlomeno essere portatore di Ebola, e quindi questo potrebbe creare una sorta di elemento di panico generalizzato. Quello che vorrei riflettere, su cui vorrei riflettere questa mattina, e voi avete questo tipo di paura, perché guardate, c'è stato in varie epoche e in vari periodi per vari tipi di morbi, pestilenze, diffusioni, non ultima quella per le malattie sessualmente trasmissibili, che però non hanno poi fatto cambiare i costumi sessuali, ma hanno creato almeno agli inizi una sorta di pregiudizio discriminatorio nei confronti dei possibili, probabili, immaginabili, anche se non razionalmente certificabili, untori. Questo è un termine antico, l'untore rinasce ai tempi della storica peste a Milano raccontata da Manzoni. Gli untori erano quelli che si pensava, non sapendo l'origine della peste, che andassero in giro con dei pannolini di unto a ungere le porte per far diffondere la peste. La psicosi dell'untore è sempre stata legata comunque a tutte le malattie tipo inspiegabili, che venivano chiamate come castighi divini, maledizioni, moniti verso l'umanità, e devo dire che su questo si è fortemente sbizzarrita anche la fiction del cinema. Voi come la pensate? Avete paura dell'Ebola? Cosa fate? Guardate con sospetto il vostro vicino metropolitana soltanto perché magari è palesemente un cittadino africano e quindi potrebbe in qualche maniera portarvela? State attenti, mettete la mascherina, fate come quando c'era la paura della febbre suina e cose del genere, che la gente non usciva più, non andava, chi tornava da Londra sembrava che fosse guardato con estremo sospetto, come se fosse un appestatore. 800 24 0024. Signore, che succede? A quanto pare abbiamo un livello 4. Febbre emorragica, mortalità elevata. Secondo lei di che si tratta? L'organizzazione della sanità sta mettendo insieme una squadra, ma prima voglio che vai tu laggiù. Chi contrae il virus accusa sintomi tipo influenza. Nel giro di 3 giorni compaiono lesioni arrossate su tutto il corpo, insieme a piccole pustole che presto esudano sangue e pus, una specie di liquido lattiginoso. Le lesioni maturano, appaiono plastiche al tatto, seguono vomito, diarrea, epistassi, emorragia gengivale. Gli occhi sanguinano, gli organi interni cessano di funzionare. Molto bene, maggiore, l'abbiamo letto anche noi il manuale, ma fra 16 ore avrà il tutto sotto gli occhi. Mortalità preoccupantemente alta, localizzata nel raggio di 8 0024 0024. Avete timore che scatti la psicosi dell'untore da Ebola? Voi stessi ne siete contagiati, dalla psicosi naturalmente. Avete sospetto, guardate con sospetto le persone che vi stanno attorno, pensate che possano essere in qualche maniera probabili portatori. Come risolvete la vostra angoscia quotidiana? Alberto, buongiorno. Buongiorno. Salve, io chiamo da Modena, niente, volevo soltanto dare anche una mia valutazione riguardo la formazione degli operatori e l'informazione su quello che gira riguardo l'Ebola. Io sono infermiere, lavoro a Baggiovara, diciamo che a noi non è arrivata nessuna informativa ancora regionale riguardo la questione. Lei dove lavora, in un ospedale? In un ospedale primo pubblico, sì. Quindi in teoria voi dovreste avere già un protocollo nel caso che si presentasse una persona, sì, con dei sintomi. Sì, anche se dico io lavoro in un reparto che non è quello delle malattie infettive, però credo che anche nel reparto delle malattie infettive che si trova al Policlinico di Modena non sia arrivato ancora un protocollo specifico, almeno così credo di sapere. Tra l'altro l'allarme è stato lanciato anche a livello nazionale dal sindacato degli infermieri, NUFIND, che ha scritto una lettera al Ministro della Sanità proprio sulla questione dell'informazione e della formazione degli operatori. Ora, insomma, hanno paura anche loro della problematica che potrebbe presentarsi in un momento all'altro. Quindi voi siete esattamente come gli altri, attrezzati esattamente come un qualsiasi altro cittadino, dice, noi stessi. Sì, abbiamo... alcuni ospedali, io parlo anche a livello nazionale, alcuni ospedali sì, sono state preparate le tute, ma sono quelle che sono rimaste della SARS, che nulla hanno a che vedere con l'Ebola. Ah, ci sono ah, perché c'è la tuta d'Ebola e la tuta della SARS, chiaramente, certo. Assolutamente sì, ma anche le mascherine sono differenti. Lo sa che hanno aperto un grosso business, in rete vendono già le tute d'Ebola, solo che girare con lo scafandro è meglio stare a casa forse. Roberto, buongiorno. Roberto. Spenga la radio però. Sento solo me stesso in radio, Roberto dice, allarmismi che non esistono, come aviare, lingua blu e via dicendo. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti. Silvana De Mari, allora, scrittrice di fiction, ma anche medico, anche psicologa, è stata a lungo tempo in Africa, ha trattato anche lei problemi molto gravi, quindi mi sembra la persona adatta anche perché ha un punto di vista, secondo me, eterodosso rispetto al buonismo corrente, ah, tutti cattivi, puntate il dito. Tu sei d'accordo, mi sembra, Silvana, sul fatto che l'allarmismo, insomma, riesce almeno a far alzare alcune difese che sennò altrimenti sopirebbero, qualcosa del genere? Dunque, l'allarmismo è assolutamente fisiologico, stiamo parlando di una malattia mortale per cui non c'è cura. E qui vorrei fare la distinzione tra il cittadino dello Stato liberale e il cittadino dello Stato fascista o comunista, è la stessa cosa. Abbiamo anche dittature mollicce, non tutte dure. Lo cittadino dello Stato liberale non è un cittadino virtuoso. Una volta che ha pagato le tasse e rispettato le leggi, basta. Non deve sapere la geografia, non deve sapere che l'Uganda e la Liberia sono due nazioni diverse. Una volta che c'è la parola Africa e la parola è la stessa, è giusto che confonda. Un cittadino ha diritto di avere paura, perché la paura è sul sistema limbico, mentre le parole arrivano sul sistema corticale a 2 centimetri di distanza. E il cittadino deve essere protetto dallo Stato, non solo dalle infezioni, ma anche dalla paura. In più, durante le grandi infezioni noi ci siamo salvati, signori, dalla peste aviaria e dalla SARS perché c'è stata una crisi isterica mondiale e li abbiamo fermati. Non abbiamo avuto la crisi isterica con l'AIDS, ci siamo detti no, non bisogna preoccuparsi, non bisogna fare allarmismi e l'AIDS ci è scappato. La SARS l'abbiamo fermata, mi piange il cuore dirlo, perché per fortuna, mi piange il cuore dirlo, lo giuro, la Cina è una dittatura che ha bloccato i quartieri dove c'era stata i casi e l'abbiamo fermata. La bambina è andata in Uganda, benissimo, si fa 10 giorni di quarantena, perché le mamme degli altri bambini devono anche essere rassicurate. Le mamme degli altri bambini non hanno il dovere di conoscere la geografia, hanno il diritto di essere spaventate. La paura è la più antica delle emozioni, ce l'ha già l'ameba, è la più violenta, è quella che ci leva la capacità di ragionare, perché è quella che ci salva la vita. Durante la più terrificante delle epidemie, la peste del 1300, quella del Boccaccio, non quella del 1600, quella del Manzoni, Milano si salvò perché chiuse le porte, quando qualcuno aveva la peste lo chiudevano dentro ancora vivo a casa sua e davano fuoco. Beh, oddio, non voglio, era un po' drastico come sistema, però era almeno... Sì, però sì. L'ha fermata, è l'unico posto dell'Europa che non ha avuto la peste. E come diceva una signora che a me molto quella fu una peste tremenda, colpì tutta l'Europa, fu una strage mai vista. Un europeo su tre è morto. Voi avete presente che cosa vuol dire l'Ebola in una città come New York o come Milano? in una metropolitana se uno ha l'ebola e tossisce. Il risultato è che se uno di origine africana di fianco, ma io mi sposto, sarà brutto, sarà razzista, ma se questo io che ne so. Peraltro, insisto, la paura è sul sistema limbico. La paura non riesce ad essere rassicurata da informazioni cognitive. E uno Stato deve proteggere i suoi cittadini anche dalla paura, perché la paura è comunque un dolore. A questa bambina è stato chiesto una settimana di quarantena. Non è stato chiesto, hanno ucciso, l'hanno bruciata viva, buttata fuori dalla scuola. Gli hanno chiesto, sta a casa qualche giorno. Se andate in Uganda, hai fatto male, durante l'epidemia si sta fermi a casa. Perché non è vero. Noi non possiamo affermare che in Uganda non c'è l'ebola. Possiamo affermare che... Che non ci sono stati casi conclamati. Non c'è sta, ma c'è sempre un paziente numero zero. Io che ne so che magari quella in Uganda era già arrivato, perché comunque la Liberia è più vicina all'Uganda. Fino a 2 anni fa non c'era casi neanche in Liberia, quindi ci sarà stato qualcuno che diceva ma no, viene dalla Liberia, non c'è problema. Ma soprattutto la paura, mi dispiace, è un'emozione troppo enorme per poterci discutere, soprattutto la paura per un figlio. Quindi diciamo, con gli strumenti razionali di chi scrive un pezzo sul giornale chiuso nella sua redazione, tranquillo, con tutti i colleghi che conosce da 30 anni, con l'aria condizionata, che va a lavorare con il taxi, con la sua automobile, quindi non ha motivo di far esplodere questa irrazionale paura, dovrebbe tenere conto che in fondo anche le mamme della scuoletta di Porto Romano possono avere qualche lecito diritto e avere un pochino di paura. Leonardo, buongiorno. Oh, buongiorno, appunto su questo volevo intervenire, perché adesso... Mi sente? Sì, la sento. Adesso con Natale molti di loro vanno a trovare i parenti. Io ho provato a parlare con qualcuno e ho detto, ma pensate, cioè, quando dice loro, dice diciamo abitanti dell'Africa. Sì, abitanti dell'Africa, perché non volevo tacciare. Io direi, il problema è i controlli alla fine, per chiunque viene dall'Africa, anche se è bianco. Abbiamo 77. Sì, vale anche per le signore che vanno in Kenya a fare turismo sessuale, vale per chiunque. Sì. Esatto, abbiamo 77 aeroportucoli in Italia. Uno arriva dalla Nigeria dove vuole, smonta a Treviso, a Orio Serio, a Verona e controlla cosa? Un po' di febbre. Direi, mettiamo nei prezzi del biglietto, che adesso saranno stralo cost per quei posti lì, 30-40 euro in più, e quando arrivano gli facciamo una visita un minimo decente per dire boh, siamo tranquilli, questo non dovrebbe contagiare. Perché con Natale ritornano e i bambini ritornano e poi li mettiamo a scuola, senza voler dargli, purtroppo uno è un tore a sua insaputa, se ha la malattia ce l'ha. Si dice, non è una colpa, però senza... Sì, però lo sa qual è il margine di rischio, che già parliamo, diciamo, di parte l'umanità che già in sé ha il grosso sigillo di essere discriminata a priori, a presenza. Adesso aggiungere anche questa cosa, però io sono d'accordo con quello che dice Silvana Emare, dice lei, bisogna affrontarlo razionalmente il problema. Non è che le nostre paure di sembrare eccessivamente non attenti al non discriminare non crea il problema di abbassare le difese dal punto di vista della prevenzione. Fermiamoci un istante, diamo l'informazione del traffico, vedo che però il problema appassiona. Melog, cronache meridiane. Prendi i germi, per esempio. I germi? Nel XVIII secolo non esistevano mica. Nada, niente. Chi l'avrebbe mai partorito? Un'idea del genere. Certo, non lo sanno di mente. Poi arriva questo dottore. Samuel Weiss. Samuel Weiss un bel giorno arriva e cerca di convincere la gente, gli altri medici soprattutto, che esistono questi piccoli, invisibili, cosi chiamati germi, che ti entrano nel corpo e ti fanno ammalare. E li convince i dottori che è giusto lavarsi le mani. Che cos'è questo? Un pazzo? Queste cose invisibili, come li chiami tu? Germi? Come? Ora... facciamo un salto nel XX secolo, una settimana fa. 800 24 00 24, sono partiti dal caso della bambina discriminata dalle altre madri perché veniva dall'Africa, di 3 anni, in una scuola romana, diciamo. Abbiamo paura perché la bambina dall'Africa potrebbe attaccarci l'ebola. La razionalità dice che veniva dall'Uganda, uno stato che non aveva nulla a che fare con la Liberia, il paese in cui è stata accertata e certificata la presenza di ebola, e abbiamo vari pareri, molti ascoltatori chiamano, alcuni indignati, date spazio a discriminazione povera bambina, altri dicono Nicoletti le è stata data una bella lezione. Boh, insomma, io ogni giorno viene data una lezione, non so questa mattina quale lezione particolare. Abbiamo l'ospite Silvana De Mari che dice perché la paura è qualcosa di irrazionale. Non possiamo stabilire che la paura a priori possa essere sanata da informazioni razionali che poi non hanno nemmeno una radice così profondamente rassicurante, dicendo no, ma sta in Uganda, uno stato che è distante dalla Liberia, che vuol dire? Sappiamo che il focolaio è in Africa, è logico che abbiamo tutti paura profonda, innaturale, immotivata, irrazionale, ma abbiamo paura. Questo naturalmente va ad aumentare una nostra caratteristica di civilizzazione che non discrimina le persone per il loro luogo di origine, per la loro, il colore della loro pelle, per la loro cultura e via dicendo, e questo va bene. Poi in questo momento comunque esiste un'emergenza che ci spaventa. Rossana, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che qualsiasi cosa viene ricondotta al fatto di razzisti. Io non lo tollero più questa tiritera, questa polemica continua e inarrestabile. Allora, io sono una donna di 65 anni, ho visto persone che hanno avuto la poliomielite, ho visto persone che hanno avuto la tubercolosi e sinceramente me ne ricordo. Era le malattie di quando eravamo piccoli, sì. Cioè, e quando esatto. C'era sempre allora, in classe un bambino con la gambina... Mi faccia finire però, per favore. Il discorso è questo. Queste persone che abbiamo, queste extracomunitarie che continuamente arrivano, scusi, abbasso la radio perché... Sì, poi arriva una conclusione, signora. La conclusione è questa, noi sappiamo che vita fanno queste persone, non amano l'igiene, si tocchiano il naso con le dita, e, insomma fanno qualsiasi cosa e vivono in mezzo al sudice e quant'altro. Io non ho paura solo dell'Ebola, io ho paura di tutte le malattie, pertanto quando viaggio... mi porto dietro dei tovaglioli. La mucchina? No. Prego? La mucchina? No, assolutissimamente. Io uso i tovaglioli di carta e quando arrivo a destinazione, se prendo i mezzi pubblici, li butto nei... Ma il tovagliolo la difende da un contagio, signora? Come? Il tovagliolo di carta la difende da un contagio? Ma io mi difendo perché lo metto in quattro strati. Presumo di sì. E guarda, ci siede sopra, lo mette sul sedile. No, io parlo di reggermi nei pali delle cose. Io non mi siedo, non mi appoggio su nessunissima cosa. Cerco di evitare qualsiasi contatto, perché anche attraverso la stoffa... Vabbè, lei si salverà la vita, signora, sono contento. Grazie della lezione. Roberto c'è ancora? No, Maria Grazia. Sì, ah, Roberto, veloce, sì. Sì, no, volevo dirti che io sono... al di fuori da questi discorsi qua, perché io ho lavorato tanto in Mozambico, in India. Quindi lei ha viaggiato molto, sì. No, ho lavorato, ho vissuto degli anni, quindi stare come la signora con i cartini e tutto quanto era molto difficile per me. Ecco, dico, no, poi le cartine non so quanto salvino, comunque va bene. Bravo. A parte questo, dove ho lavorato io morivano centinaia di persone al giorno di malaria, di amebra, tutte queste cose qua. Cioè, questi allarmismi, io sinceramente... può essere, però dopo tante volte come dice al lupo, una volta la lingua blu dei vitelli, una volta la viaria, ora la meba, ora l'ebola, non la meba, e poi vedo che muore una persona sì, una persona là, cioè in Africa muoiono migliaia tutti i giorni, ma di malaria, cioè e nessuno dice niente, muoiono dietro. Lei ha detto, diciamo, ci sono malattie mediaticamente trasmissibili, malattie anche molto gravi che in realtà danno meno segnali. Silvana De Mari, su quello che hai sentito finora. Assolutamente sì, la malaria uccide molto più dell'AIDS, però la malaria non può contagiarsi in Europa con una pandemia drammatica, perché necessita di una bestiola intermedia, la zanzara, una volta che uno ha sterminato le zanzare diventa più difficile. Mentre l'Ebola è una malattia virale facilmente trasmissibile. Se io mi trovo in una metropolitana un caso di Ebola e non me ne accorgo, rischio di avere un qualcosa che mi parte. Cioè tutta la metropolitana si contagia, per paradosso. E l'Ebola può diventare una pandemia anche sul suolo europeo, mentre la malaria, che lo è stata, no, perché ha bisogno della zanzara. Noi le zanzare siamo in grado di farle fuori. Una volta che disinfetti e non c'è più la zanzara, tu puoi avere 1000 casi di malaria, 10.000, 100.000, non hai milioni di casi. Se l'Ebola ci parte in una grande città, può diventare qualcosa di spaventoso. E c'è una vecchia regola che dice che è meglio un brutto processo che un bel funerale. È meglio essere dalla parte del torto ed essere assolutamente certi che non succede nulla, che essere dalla parte della ragione, aperti, simpatici, intelligenti, e che succedano catastrofi. Oh, se tu dovessi dare un consiglio, per assurdo, visto che siamo in conclusione, mi sei proprio in una battuta, con la tua esperienza, sei stata in Africa, le hai viste veramente di tutti i colori, cosa consiglieresti se fosse dato a te motivo di dare una prendere una decisione? 15 giorni di quarantena. Viva in Africa, soprattutto nell'Africa subsahariana, tutti 15 giorni di quarantena. Quindi turisti, qualunque assurda, bianchi, qualunque persona, perché sennò sembra chiunque. Perché la l'Ebola non colpisce i bianchi? Cioè, no, per dirlo. Sì, chiaro. Quindi, Se viene non dalla Liberia, che perlomeno per 15 giorni non vada in posti pubblici come le scuole. Sarebbe una roba isterica, ma io devo rassicurare anche le madri dei bambini. E poi la gente dovrebbe dire come gestiamo il panico di fronte a una cosa del genere. Beh, abbiamo messo della carne al fuoco, vediamo chi risponderà. A domani.